Obiettivo Salute. Siamo ritornati insieme e ritorniamo in famiglia. E questo è un giorno, il 26 dicembre, in cui le famiglie dopo il Natale tornano insieme, si guardano, si osservano, si intrattengono, si fanno dei progetti lenti. Si fa una passeggiata, un relax, una divanata, un po' di coccole. Ne parleremo tra poco con Alberto Pellai, che alle coccole ha dedicato addirittura un libro, Il Coccolario. Si va al cinema, insomma si sta insieme. E i nostri amici di oggi, Alberto Pellai, Alessandra Faiella, in fondo ci danno questa indicazione, questa ricetta: sorridere e riscoprire e coccolare il bambino che vive dentro di noi. Lo possiamo fare in tanti modi, il risultato è assicurato. È assicurato. Il comico, l'umorista, la persona che fa della comicità un mestiere, lo sa profondamente attingere a questo bambino che è in noi. E io faccio fare un esercizio quando faccio appunto i miei corsi di humor training sulla comicità applicata alla vita. Faccio fare questo esercizio che tutti abbiamo fatto e che tutti facciamo ancora con gli amici o con i figli in casa: guardarsi in faccia e vedere chi fa ridere prima l'altro. Attenzione non a chi scappa da ridere prima, ma chi riesce a far ridere l'altro. Come si fa a far ridere? Lasciandosi andare, le smorfie. Adesso Nico sta facendo le facce buffe, facendo le facce strane, lasciandosi proprio andare alla stupidera, come si dice a Milano. La stupidera. Quella stupidera lì è estremamente liberatoria, perché lascia andare tutte le sovrastrutture, le rigidità, le ansie, le paure, e ci riporta proprio a quella parte infantile, che è quella del clown, che è quella, no, proprio dell'abbandono alla follia, del full, quel lasciarsi andare. Insomma, senza cambiamo paura. Faccia, Alberto. Cambiamo faccia. Cambiamo espressione. E che sia stupida. Mettetevi davanti allo specchio, proprio usando questo slogan del cambiamo faccia, mettetevi davanti allo specchio, provate a guardarvi, che cosa vede lo specchio di voi e in realtà che cosa vedono gli altri. Proprio tutte oggi, le volte, proprio tutte... oggi me lo devi dire, che uno si sputa in un occhio, ancora tu, provate ancora tu. Provate anche a riflettere su che cosa, per esempio, i nostri bambini vedono normalmente sul nostro volto, che è proprio una domanda che a volte il terapeuta fa al suo paziente quando rivede zone dell'infanzia che sono state faticose. Dire: provi un po' a immaginarsi, a riguardarsi seduto a tavola. Adesso guardi il volto della sua mamma e il volto del suo papà e provi a trovare un aggettivo che me lo racconta. Ecco, a volte vengono fuori delle gallerie degli orrori. Squarciano queste domande. Noi ve le diciamo in anteprima, così casomai voi siete pronti. Però rifletteteci bene. Sì. Tante volte effettivamente noi disegniamo sul volto la parte peggiore di noi, che è quella che in realtà non vorremmo mai abitare. Ed è vero che se uno ha avuto un problema grosso, una malattia, un lutto, non può mica far finta, no? Però è anche vero che noi spesso trasformiamo in mega problemi delle cose che sono invece dentro uno spazio relativo della nostra vita, e non riusciamo più a separare quello spazio da tutti gli altri spazi. Allora lo spazio con i nostri figli, per esempio, in famiglia, con i nostri amici, può essere uno spazio davvero dove io riattivo quella cosa lì che c'è e che mi ero dimenticato che c'era. Allora questa cosa io la posso davvero raccontare col volto, se io ho un po' più di controllo sulle mie espressioni del volto e lascio che altre parti emergano e non solo quella parte lì brutta e cattiva. Sì. Sì, ma quando mio figlio era piccolo era più facile fare buon viso, essere sorridente, guardarlo proprio con tenerezza, con amore. Adesso che è adolescente è difficile che mio figlio mi guardi e non veda una faccia incacchiata nera, perché sei sempre arrabbiato tu, genitore di figlio adolescente, quindi devi proprio sforzarti di sorridere a un adolescente. L'adolescente non ti permette tanto di sorridere, anche perché non siamo mai preparati all'adolescenza dei nostri figli. Dall'oggi al domani cambiano, dalla sera al mattino. Metti a letto tua figlia che ti sorride, dice: mamma, sei la più bella del mondo, con la magliettina di Hello Kitty. Alla mattina apri la porta: vattene via, vecchia schifosa! E dici, chi è stato? Non può essere mia figlia, sono stata Hello Kitty, chi è? È terribile, mio figlio, ho scoperto che l'adolescente quando sono entrata in casa ho sentito un odore di nutria morta proprio. Pensa lui che ne ha quattro. Erano, mamma mia, la disinfestazione. Cosa non spendiamo in deodoranti per la casa? Calzini, eppure, putri di ovunque, che tristezza. Eppure, al di là della puzza di nutria, bisogna ridere, anche con gli fa bene anche a noi. È vero. Bisogna andare di coccole. Vero Alberto? Anche con gli adolescenti. Questo coccolario, io voglio parlare del coccolario. Ma perché l'adolescente mi piace. Sfugge alla coccola. Allora, vero? Normalmente l'adolescente proprio sfugge, non si lascia sfiorare, toccare. Non si lava, da un vero. E poi non si lascia coccolare. Da un vero e proprio mansionario anche al genitore, no? A quanti metri di distanza si è autorizzato a rimanere, soprattutto quando in giro ci sono gli amici, quindi lo devi proprio lasciare 150 o 200 metri prima, che vedano che è accompagnato. E poi diciamo che nei giorni di festa gli adolescenti vanno presi con le pinze perché hanno dei grugni, mamma dei musi. Detto questo, però, delle parentesi, dei piccoli squarci di luce che a volte arrivano. Quando aprono i regali, mio figlio si illumina solo. Ieri si illuminava solo quando apriva i pacchi. Deve essere stato bravo per se Babbo Natale ha portato tutti quei pacchetti. Bravo, che ti stressano. E l'altra cosa. Cosa che a me è capitato che il mio preadolescente, lo tsunami qui undicenne, una sera proprio mi è arrivato lì perché stavamo sperimentando questo coccolario, no? Che è pieno di tante coccole differenti, sull'unica che ce lo lasciava sperimentare, che era Caterina, la più piccola di famiglia. Ma improvvisamente noi abbiamo visto un undicenne che si impennava, che arrivava lì e che con fare soldatesco ci ha detto: coccolario anche per me. E quindi lui ha preteso la sua sessione di coccole. È stata proprio una parentesi, è stato, sai quando dici proprio che vedi un pois che compare dentro a questa distesa incredibile, sempre dello stesso colore. Però per me è stato proprio sorprendente anche vedere questa proprio faccia bella, pasciuta, tranquilla. Perché e le coccole in realtà non hanno età. Brava, è come il sorriso, è come il sorriso. Ci vorrebbe un coccolario anche per gli adulti, ci vorrebbe proprio. Perché non lo scrivete voi due? Il coccolario per gli adulti. Adesso? Oggi che è Santo Stefano, è il giorno giusto. Mettetevi per iniziare a scrivere un libro nuovo. No, inizia a essere un giorno in cui iniziare un po' a fare dei progetti. Sì. Mettere, perché la fine dell'anno si avvicina, non so voi, se non so se siete abituati poi a fare un po' una sorta di bilancio di fine anno, è troppo presto. Io sempre un po' timore dei segni più o meno davanti a lei, ho fatto questo, ho fatto l'altro, è andata bene, è andata male. Ma tu intanto ti porti avanti e lavori. Quest'anno è andata talmente male. Ho avuto un anno così sfortunato che l'anno prossimo non può che andare meglio. Mi sono già messa nella prospettiva, come dicevo prima, infatti lavoro, faccio lo spettacolo al Teatro Verdi anche a Capodanno, oltre che dal 27 al 29, e come dicevo prima, secondo me è importante iniziare perché lì ci sono c'è il pubblico, ti dà tanta energia, capisci? La gente pensa che noi come dire siamo i loro beniamini, facciamo gli spettacoli per farli divertire, ma in realtà noi prendiamo tanto dal pubblico, vampironi. Adesso devi sempre metterla sul negativo, perché c'è uno scambio di energie, poi dopo si balla. Bello. E quindi ci si diverte, un po' si beve anche, no? Voglio dire, certo, quel minimo per stare un po' più su di giri, ed è un modo di iniziare l'anno con un pieno di ottimismo e di energia. Alberto, tu sei inizi a fare un elenco delle cose fatte e quelle non fatte, tanti libri quest'anno? Tanti libri. Quest'anno è stato da scrivere? No, ha scritto tanti libri, scritto. Sempre in vetta alle classifiche. È stato un anno buono invece per me. Un giro per il mondo. Fortuna. Lo tsunami è andato a vedere nella testa degli adolescenti. E comunque rimane cose mi puoi spiegare, allora. Che io durante le vacanze di Natale faccio pochissimi bilanci, almeno il 26, il 27, il 28 non mi preoccupo dei bilanci, mi preoccupo proprio di stare bene. Posso provare, visto che abbiamo parlato tanto di consigli e di bambino interiore, proverei a consigliarvi di recuperare un vecchio film, un film credo che abbia un 15-20 anni e che ha dentro non adolescente, solo insomma, la magia del Natale, ma è proprio raccontata attraverso la storia del bambino interiore che c'è dentro di noi, che è Polar Express, ed è proprio un bambino che è lì sulla soglia tra il mondo che è ancora un mondo delle magie e un mondo invece che è quello del principio di realtà. Non sa da che parte stare, diventare grande vuol dire rinunciare a tutta quella bellezza, quella cosa che faceva la magia del Natale. Per alcuni è proprio un po' stato così, ci si accorge che si diventa grandi quando non si sente più la magia del Natale. Allora arriva questo treno che in questa fase di dubbio lo porta nel territorio dove c'è il Natale, proprio con tutti i suoi simboli, con tutti i suoi elementi, e dove ci sono altri bambini con cui bisogna imparare a cooperare e fare squadra. Ed è un incredibile viaggio, ritorno nel mondo dell'infanzia che abbiamo abitato anche noi, dentro quel territorio dove c'erano le campanelle, i sonaglini, gli alberi, i decori, i regali, l'aspettativa, la vigilia, il giorno in cui la letterina, ecco, tutta quella roba lì ricompare potentemente dentro un film che ha una proprio visionario, è bellissimo, è un cartone davvero incredibile e secondo me è un cartone che parla immediatamente al bambino interiore. Bisogna guardarlo con quegli occhi lì, perché se uno lo va a guardare con l'occhio del cinquantenne rischia solo di annoiarsi. E allora, visto che consigliamo dei film, visto che Santo Stefano, l'abbiamo detto prima, è il giorno dei film, e visto che io ho un figlio adolescente di cui ho già accennato ampiamente, andate anche a vedere, vi consiglio di andare a vedere Gli Sdraiati con, con il grande Claudio Bisio, perché insomma è divertente, amaro insieme, ma alla fine anche quest'età così terribile che è quella dell'adolescenza, no, non ha degli aspetti positivi, voglio dire passa. Alla fine passa. Anche questa età passa. Passa l'adolescenza come passano le feste di Natale, speriamo di non passare noi e quindi io vi aspetto. Noi non passiamo domani. Mai di moda, Nico. Beh, questa è un po' tanta, ma dai, che per le feste va bene. Io vi aspetto domani, come sempre, con Obiettivo Salute, la nostra striscia quotidiana, e poi tutti i giorni, insomma, noi siamo qua. Se volete scriverci, se volete regalarci un sorriso, che cosa possiamo augurare d'altro? Io vi aspetto a teatro domani. Alberto? Io auguro a tutti proprio di fare delle giornate in cui ritorna sulla scena il vostro bambino interiore e ve lo godete. E direte, hai sentito? Avevo sentito quei tre alla radio che parlavano di sto bambino, ma poi alla fine l'ho trovato. Evviva! Auguri, buona giornata! Auguri!